A bordo campo di Dario Ricci. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Baldini's back. This being the first World Championships after the Olympic Games, it must be great for him to be back. Eh sì, Andrea è tornato, come avete appena sentito, sulle note della straordinaria ballata di Bob Dylan, Hurricane, dedicata ad Hurricane Carter, quel campione del pugilato che venne ingiustamente condannato e poi redento. Parliamo di un Andrea particolare, perché era dal 1986 che un italiano non si laureava campione del fioretto, campione del mondo del fioretto nella gara individuale e nella gara a squadre. Allora era stato Andrea Borella. Stavolta è stato ai recenti mondiali di Antalya in Turchia Andrea Baldini, che oggi è ospite di A Bordo Campo. Benvenuto Andrea. Grazie, salve a tutti. Beh sì, che dire, in effetti è veramente da un po' di tempo che non accadeva questa doppietta e quindi non può far altro che farmi piacere. Poi Borella lo conosco bene, è un grande campione, quindi succedere sicuramente a lui è un ulteriore motivo di soddisfazione. Ecco, dopo questa doppietta ai Mondiali di Antalya, lo hai sentito Andrea, vi siete parlati? Sì, mi ha mandato un messaggio. Ora probabilmente lui non sapeva di questo dettaglio, di questo episodio, quindi non ha fatto nessun riferimento a questo. Poi probabilmente i giornali ne hanno parlato, quindi sarà venuto a saperlo. No, comunque mi ha fatto i complimenti, come ne ho ricevuti tantissimi d'altronde dal mondo della scherma, e ha detto che un po' se l'aspettava. Non lo so, dovreste chiedere a lui. Beh, insomma, so che voi sportivi, insomma, spesso avete le vostre scaramanzie, le vostre superstizioni. Ritrovarsi nell'hotel che ti ha ospitato ad Antalya, nella stanza 1111, cioè 1111, è stato quasi un segno premonitore. Dai, buttiamola sul ridere. Sì, devo essere onesto, ci ho pensato appena l'ho vista. Chiaramente se era la 222, insomma, si poteva cambiare. Poteva cambiare, non lo so. Il discorso è comunque, io non ero in singola al mondiale, ma ero con Simone Vanni, quindi ho anche pensato che magari potesse portare bene a lui e non a me, quindi insomma è andata bene così, l'ho saputo soltanto dopo l'individuale. Poi chiaramente poi abbiamo anche vinto l'oro a squadre, quindi sicuramente una camera fortunata, non c'è da dire altro. Beh, insomma, prenotazione confermata nel caso si vada a fare qualche vacanza in Turchia o qualche altra manifestazione internazionale. Andrea Baldini, questa doppietta sulla pedana turca è stata anche il momento del riscatto, no? Un momento che ti ha sicuramente aiutato a dimenticare quella che era stata la grande delusione olimpica, la mancata partecipazione ai giochi di Pechino 2008, per una vicenda che poi con il fioretto e con la pedana non aveva niente a che fare. Squalifica per doping alla vigilia della gara più attesa. Beh sì, esatto, è stato sicuramente un'annata difficile, perché chiaramente non è facile poi trovare la voglia di crederci ancora, di rimetterti appunto in pedana e seguire un percorso nel quale tu hai sempre creduto, no? Quindi con dei valori dello sport che tutti noi conosciamo, però che evidentemente non sempre vengono rispettati. E quindi c'è stata questa squalifica forzata di 6 mesi, e poi da lì penso di essere ripartito più forte che mai. Sicuramente questa storia mi ha cambiato molto, mi ha cambiato dentro, e uno poi penso porta in pedana quello che è nella vita di tutti i giorni, quindi un po' pochino, un po' i risultati sono venuti anche da sé, ecco, avevo tantissima voglia di far bene, probabilmente non mi sarei aspettato di fare un, di chiudere una stagione così come è andata, no? Perché oltre a, al titolo mondiale anche quello europeo, la vittoria in Coppa del Mondo, insomma, probabilmente se me l'avessero detto prima non ci avrei creduto, però ci tenevo tantissimo a dimostrarlo anche con i fatti in pedana, appunto, quanto fosse, quanto quello che era stato detto quel 31 luglio non fosse altro che appunto un brutta, una brutta storia non sportiva, ma quindi di un sabotaggio, ecco. Eh sì, perché vale la pena precisarlo, Andrea, era risultato positivo ad un diuretico, ma le indagini successive hanno in qualche modo confermato che non hanno chiarito come questa sostanza era stata assunta, ma hanno scagionato completamente lo stesso Baldini, tant'è che oggi ormai so che a bordo pedana adottate delle misure di controllo particolare ogni volta che andate a bere da qualsiasi bottiglietta d'acqua, vero? È cambiato totalmente il clima in questo senso? Beh sì, il clima sicuramente è cambiato, io come stavo attento allora in realtà, perché in realtà non ero negligente come poi è stato detto, appunto, come usando quella scappatoia per darmi quindi 6 mesi, non lo sono stato allora, sicuramente non lo sarò adesso, in futuro non lo sarò ancora meno. Però purtroppo prevenire questo tipo di cattiveria, chiamiamola così, è veramente difficile, no? Perché comunque basta una sostanza così come questa del diuretico in sapore, in odore, si può mettere dappertutto. Ora in questo caso, questa volta è stata l'acqua, però non ci vuole magari nulla anche a spruzzarla, a iniettarla nel cibo. Ora potrei sembrare paranoico, però purtroppo quando uno perde comunque quello che è sempre il sogno, no? Che uno ha fin da bambino, un sogno sportivo, chiaramente è una botta grossa. Ecco, tu che hai vissuto questo momento così difficile da involontario protagonista, a me colpiscono molto magari alcuni atleti, faccio l'esempio più eclatante, Rafael Nadal, il campione spagnolo del tennis, che spesso si lamenta dell'invadenza dei controlli antidoping anche rispetto alla privacy stessa degli atleti. Ecco, da questo punto di vista tu questa lotta al doping, a questo punto, alla luce della tua esperienza, come la vivi? Cosa credi si possa fare per fare dei passi in avanti significativi? Ma io diciamo che mi guardo bene da fare, cioè la lotta al doping è sicuramente importantissima, però la mia storia mi insegna anche che purtroppo tanto non è un discorso di veramente di caccia a quelli che sono i violatori di questi valori dello sport, ma è più un giro di affari, un giro politico anche di cariche, la stessa WADA, no? Che è questo organo che controlla tutto, è un po' ha dei regolamenti dove effettivamente poi l'atleta coinvolto, specie in questo caso, no? L'atleta innocente non ha le carte, non ha la possibilità di dimostrare la sua effettiva innocenza. Loro hanno sempre l'ultima parola, si è visto appunto con la sanzione comunque nei 6 mesi, no? Perché io so benissimo che chi mi ha giudicato quel giorno ormai era convinto della mia effettiva innocenza, però secondo me quel giorno ha perso un po' lo sport, no? Con questa specie di escamotage di darmi quei 6 mesi così, però la lotta al doping è chiaramente importante, insomma, però bisogna prima di fare proclami, no? di affossare qualcuno, bisogna rendersi effettivamente conto se l'atleta è davvero colpevole o meno. So che ancora non hai assaporato il gusto dolce di un'Olimpiade vinta. Che sapore ha invece un'Olimpiade neppure disputata in questo modo? Ma che sapore ha? Io mi ricordo che avevo avevo praticamente le valigie già fatte, ero lì ormai a un passo da quello che è stato un cammino lungo, no? Iniziato praticamente da quando faccio scherma, che con la testa penso, sogno quell'evento. E quindi poi mi ricordo che in quei giorni non ho voluto assolutamente vedere la televisione, quella che poteva essere la sfilata, no? Ho staccato proprio completamente, però insomma ci penso, ma perché comunque chiaramente questa storia fa parte di me, dentro di me, però penso di essere stato bravo comunque a saper poi guardare avanti e a riprendere un percorso positivo, comunque a guardare anche gli aspetti positivi, anche se non era facile anche di questa brutta storia. E quindi gli aspetti positivi sono l'affetto delle persone che magari da subito non hanno messo in dubbio la mia buona fede e mi hanno aiutato tantissimo a rientrare a maggio, ecco, e con la voglia veramente di dimostrare e di far bene. Anche perché appena sceso dalla pedana di Antalya con due medaglie d'oro al collo hai detto Londra 2012 in fin dei conti non è poi così lontana. Beh sì, se non altro un anno più vicina, no, beh. Il passaggio del campionato del mondo era per me importantissimo, non ero mai riuscito a ottenere l'alloro individuale, era due anni che ci arrivavo vicino, sono arrivato per due volte secondo e quindi è sicuramente una vittoria bellissima che mi porterà un sacco di ricordi dietro, anche chiaramente per tutto il percorso che è nato appunto dalla vigilia di Pechino a ora. A bordo campo. Ancora insieme con Andrea Baldini, il campione del mondo individuale e a squadra di Fioretto, qui a bordo campo, sentiamo quest'audio, Andrea. Addio Olimpiadi. La positività a un diuretico mette fuori gioco Andrea Baldini, uno dei candidati all'oro del Fioretto maschile dopo i due argenti mondiali conquistati nel 2006 a Torino e nel 2007 a San Pietroburgo. Il controllo è stato effettuato agli europei di inizio luglio a Kiev, dove gli azzurri della specialità hanno vinto l'oro a squadre battendo la Polonia in finale. Al posto di Baldini partirà il bresciano Andrea Cassarà, campione europeo escluso inizialmente dalla spedizione cinese per un assurdo regolamento. Beh Andrea, come abbiamo sentito in questo servizio, in questa testimonianza, a Pechino prese il tuo posto in squadra quell'Andrea Cassarà che venne subito sospettato come essere l'artefice principale del sabotaggio di cui tu sei rimasto vittima. Oggi i vostri rapporti come sono? Immagino sia difficile scendere insieme in pedana nella prova a squadre, vincere, perdere insieme dopo questa ferita. Beh, sì, diciamo che non è facile. Comunque, quando durante le gare individuali ognuno chiaramente tira per sé, quindi da un lato non è poi così difficile. Mentre quando siamo schierati insieme alle gare a squadre, comunque siamo entrambi professionisti e per ora va anche bene, perché da maggio non perdiamo una gara, quindi evidentemente poi oltre a me e a Cassarà la squadra è composta da altri due ottimi elementi come Vanni e Barrera, e quindi evidentemente anche se si può magari pensare che la squadra non è così affiatata, evidentemente ci sono quattro individualità talmente forti che per ora comunque bastano e quindi non starei troppo a fasciarsi la testa, insomma, come si dice, finché si vince va bene così. Ma da schermidore ti è mai venuto in mente l'idea di sfidare Cassarà a duello? Cioè del tipo risolviamocela tra di noi a un duello rusticano, insomma, fioretto in mano e... Ma no, perché a me piace i duelli, mi piace farli tramite lo sport, quindi niente, lui quando ci incontriamo ognuno cala la maschera e esprime il suo. Se riesci a far fronte al trionfo e alla rovina e trattare allo stesso modo quei due impostori, La conosci questa poesia? Sì, la conosco. In realtà non è questa la frase che ho tatuato dietro la schiena, ma cambia poco, nel senso che tutta la poesia è sicuramente rappresentativa, ma in realtà non solo quello che dice, di cui parla questa poesia, il tatuaggio che porto dietro la schiena ha più un significato verso mio padre, un ricordo che ho di lui appunto durante quei momenti difficili, ed è appunto uno di quegli aspetti di cui parlavo prima, di quegli aspetti positivi che cerco di portarmi dietro e di ricordarmi, tralasciando quelli invece più negativi. Senti, un altro grande livornese, un altro grande campione della nostra scherma è tornato da Antalya con una brutta sconfitta, no? Faccio riferimento ad Aldo Montano, all'ultima stoccata ha lasciato alla Romania di fatto l'oro a squadre della sciabola, e Montano ha detto: ho avuto paura di vincere in quei momenti. È una paura che conosci anche tu, Andrea? Beh, sì, sicuramente. È una paura che, anche se vinci, come comunque ha fatto Aldo, non, in realtà non è molto difficile da superare. Io durante la finalissima, appunto, ai mondiali, questi ultimi disputati, ero in vantaggio e mancava ormai poco, quindi vicino a un passo da quello che sarebbe stato il mio primo oro mondiale. E mi ricordo che ho avuto dei crampi, perché chiaramente magari questa paura di invece di perdere anche per la terza volta il mondiale, così quando ce l'hai un passo, quindi penso sia normale. Poi Aldo ci aveva perso all'individuale con questo rumeno, quindi sai, la scherma è uno sport molto, anche molto psicologico e di testa, probabilmente avrà risentito anche di questa sconfitta all'individuale, che anche quella si è materializzata così all'ultima stoccata. Ma d'altronde, insomma, non è che si può sempre vincere. Lui penso che lavorerà chiaramente per Londra 2012. E senti, fuori dalla pedana invece cosa ti fa paura? Ma cosa mi fa paura? Tante cose, non lo so, diciamo che rimanendo legato al discorso che si faceva prima delle Olimpiadi, del doping, mi fa paura appunto tutto quello che può essere una sconfitta che viene al di fuori della pedana, che non passa dalla pedana, perché come appunto quella che è avvenuta con quel sabotaggio che ho subito allora, perché non ti puoi difendere, quindi ho paura di quello che arriva da dietro e non ti puoi difendere. Le ragazze della pallavolo che conquistano l'oro europeo, le vostre compagne di squadra a partire dalle fiorettiste che trionfano, Flavia Pennetta, la Schiavone nel tennis, qua il rischio, Andrea, è che prima o poi ti chiameranno la Vezzali del fioretto, perché diventi un po' una mosca bianca. È un bel paragone in realtà, quello che ha vinto Valentina. Vabbè, sì, in effetti è stata un'annata sicuramente più positiva per le donne. Beh, da un lato sono contento quindi di aver tenuto alto l'onore anche della categoria maschile. Ma senti, molte donne che vincono in campo, poche invece protagoniste in panchina. Come te lo spieghi te, da protagonista della pedana e dello sport italiano? Nel senso, come allenatrici, chiaramente, come guida delle squadre nazionali. Ma non lo so, si vede ancora una società italiana forse che non è ancora pronta a questa effettiva parità, non lo so. Insomma, c'è ancora da lavorare per affidare poi alle donne anche il bastone del comando, no? Ma sicuramente penso che, insomma, hanno le stesse possibilità di emergere in quel campo anche loro, quindi sarà soltanto una questione di tempo. Here comes the story of the hurricane. senti, mi ha colpito molto anche questa tua passione per Hurricane, no? Che ti ha accompagnato sul podio ad Antalya. Come nasce? Ma nasce che è stato un mio amico, io devo essere onesto, non conoscevo la storia. E un mio amico durante appunto quel periodo un po' più brutto di un anno fa mi mandò appunto questa canzone, poi ho visto il film. Beh, niente, la mia sul podio chiaramente voleva essere una provocazione, non era certo un paragonarsi alla sua storia, insomma, che chiaramente fu molto più grave. Però voleva essere una provocazione proprio per comunque non far dimenticare alle persone che magari seguono la scherma così soltanto magari nei grandi eventi come può essere un mondiale o un'olimpiade, a non far dimenticare quello che era successo. E poi la frase finiva appunto con campione del mondo, quindi insomma sembrava un bel connubio. Direi che ci stava bene. Senti, torniamo per qualche istante al sogno olimpico. Londra 2012 è già nel mirino, è in punta di fioretto. Nel 2016 c'è Rio de Janeiro, nel 2020 sogniamo che... Ma il 2020 si sta andando un po' troppo oltre. Beh, però magari l'appetito viene mangiando, no? Potresti... Ma sì, ma in realtà io ho sempre detto che quello è il mio grande traguardo, il mio grande obiettivo, quindi non nascondo che una volta se riuscissi a ottenerlo, forse non so se riuscirei a trovare altri stimoli, però insomma dovrei trovarmici, ecco, vedremo un po', un passo alla volta. Magari nel 2020 si fa il tris d'oro. Vediamo, cerchiamo di farlo nel 2012. Infatti, cominciamo a fare il primo passo, però mi interessava avere un tuo parere su questa possibile candidatura italiana. Roma, Venezia, Venezia e Roma, Roma o Venezia. Credi che lo sport italiano sia abbastanza credibile a livello internazionale per poter portare a casa questa Olimpiade? Ma io penso di sì, sarebbe veramente... bellissimo avere la possibilità di disputare un'Olimpiade in casa. Penso, spero che questo avverrà. Poi l'unica pecca, l'unico problema può essere magari una credibilità minata da qualche episodio, magari nel calcio, che nel passato ci siamo un po' fatti notare, insomma, non in maniera positiva per questo, però secondo me si stanno facendo anche dei passi avanti sotto questo punto di vista. Io stesso recentemente sono andato allo stadio, c'erano tante famiglie, quindi penso che anche lo sportivo italiano sta cambiando in questo senso. È quello proprio che ci auguriamo, Andrea Baldini, grazie per essere stato ospite a Bordo Campo. Un'ultima cosa, regalaci un tuo sogno. Cosa sogni per il futuro dentro e fuori dalla pedana? Ma beh, dentro sicuramente, insomma, non ne ho mai fatto riservo, è quello appunto delle Olimpiadi. Fuori dalla pedana forse è la domanda più difficile. Un bel lavoro, la famiglia, la felicità. Un po' penso che è quello che cercano tutti alla fine. Beh, insomma, allora l'augurio è scontato di raggiungere questi obiettivi proprio dentro e fuori dalla pedana, e grazie Andrea per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abbordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.